giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Traffico di rifiuti, 9 arresti e una quarantina di indagati. Ad Aviano un capannone con 8.500 tonnellate di rifiuti, anche ospedalieri. Due passeri ucraini fermati sul Carso Triestino, sui loro veicoli migranti dall'Egitto e dalla Siria. Tempo in peggioramento, previste domani piogge anche intense, le verifiche sul territorio e la situazione dei bacini. Studenti senza frontiere fra Trieste e Capodistria, da tutta l'Europa studieranno la storia e le nuove forme di collaborazione tra i due paesi. Saper intervenire in caso di arresto cardiaco, evento improvviso che può colpire a tutte le età. Sport, calcio, l'Udinese, la sofferta volata a salvezza, basket, le voci dei protagonisti di Trieste-Udine dopo gara 1 delle semifinali play-off. 12:31 minuti, buona giornata ancora da Giampaolo Mauro e Maria Spezia. La cronaca nera in apertura di questa edizione con l'operazione che ha portato al sequestro ad Aviano di un capannone in cui erano state stoccate 8.500 tonnellate di rifiuti. Le indagini sono partite 5 anni fa dopo un incendio a Frosinone. Nel traffico illecito sono coinvolte diverse società, una quarantina gli indagati, 9 gli arresti, 2 dei quali nel Pordenonese. All'interno del sito in via San Martino 3 ad Aviano venivano stoccati rifiuti di ogni genere, compresi quelli ospedalieri e organici, accatastati ben oltre la capacità consentita e falsamente indicati come plastica e gomma provenienti dalla Campania, poi in parte illegalmente smistati anche all'estero. Quando i poliziotti sono entrati ci hanno trovato 8.500 tonnellate di rifiuti stipati, peraltro ad alto rischio di combustione. Una vasta operazione congiunta, Polizia di Stato, Carabinieri, coordinata dalla Direzione Investigativa Antimafia di Roma, ha portato a 9 arresti, 41 indagati, 4 società sequestrate e 2,5 milioni di euro di profitto sequestrato. Tra i reati ipotizzati, l'associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti anche transfrontaliero. Il capo della squadra mobile Frusinate, Lavio Genovesi, che ha condotto l'indagine. L'indagine è partita nel giugno 2019 in seguito all'incendio di vaste proporzioni che ha interessato una società del Frosinate attiva nel settore del recupero, riciclaggio e smistamento di rifiuti solidi urbani. Dopo l'incendio, il gruppo operante nell'azienda ha pensato bene di trasferirsi in un sito di Aviano e continuare quell'attività illecita di rifiuti, quei rifiuti illeciti che poi venivano smistati verso altre aziende o addirittura all'estero. Nel 2021 si è reso necessario l'ingresso nel sito, la constatazione del deposito di questi ingenti quantitativi di rifiuti illeciti e pertanto si è proceduto al sequestro dell'intera area. L'indagine è terminata quindi nel 2022 ed oggi, nella nottata odierna, si è proceduto all'arresto di 9 persone tra il Friuli, la Campania e il Lazio e a circa 41 indagati. Aviano, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Due passeur di nazionalità ucraina sono stati arrestati dalla polizia sul Carso Triestino fra Trebiciano e Padriciano su 2 vetture con targa ceca e ungherese a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro. Sono stati intercettati da macchine civetta. A bordo c'erano rispettivamente 6 migranti egiziani di età compresa fra i 17 e i 35 anni e 3 giovani siriani. 2 sono stati respinti in Slovenia, 6 hanno chiesto protezione internazionale ma sono stati denunciati per ingresso illegale sul territorio nazionale, mentre l'unico minore è stato affidato a una struttura convenzionata. I 2 passeur, che hanno 27 e 42 anni, sono stati portati in carcere al Coroneo. L'episodio è avvenuto il 12 maggio, ma solo oggi è stato reso noto dalla questura. Sempre a Trieste, un 19enne tunisino è stato arrestato per rapina e ricettazione dopo una serie di episodi accaduti in via Conti e poi fra Piazza Ortis e Piazza dell'Unità. In una delle circostanze una ragazza è stata colpita con un pugno al rifiuto di consegnare la propria borsetta. L'autore della rapina è stato fermato dagli agenti in via del Ponte e trovato in possesso di un martello e di un coltello che avrebbe usato per minacciare le vittime, oltre a uno spray al peperoncino. Un complice minorenne è indagato. Il tempo sarà in rapido peggioramento nelle prossime ore. Domani sono previste anche piogge molto intense, soprattutto sulla zona occidentale della regione, sulle Prealpi. Intanto il territorio e i bacini idrici sono stati messi a dura prova nei giorni scorsi. Alla diga di Ravedisi, dopo le piogge dei giorni scorsi, il livello è rientrato alle quote previste per il periodo, oggi a 19 metri dalla massima ritenuta. C'è posto ancora per circa 14 milioni di metri cubi d'acqua di un'eventuale piena del torrente Cellina, per ora non prevista. Pieno invece l'invaso di Barcis, che però non ha funzione di laminazione delle piene, così come i tre bacini sul Meduna, Ponte Raclica, Selva e Cazzul, che pure si segnalano quasi al massimo della loro capacità. In attesa di capire come evolverà la situazione meteo nelle prossime ore, siamo comunque pronti ad ogni evenienza, afferma dal consorzio di bonifica Cellina Meduna il direttore Massimiliano Zanet. Dalle ultime previsioni sembrerebbe che le precipitazioni sulle prealpi carniche si potranno attestare nell'ordine dei 100 mm. Se così fosse, grazie a Ravedis, la situazione resta comunque perfettamente gestibile, sottolinea Zanet in contatto H24 col suo personale di stanza all'impianto. Al momento non è stata emessa una nuova allerta per domani. Nella sede della Protezione Civile di Palmanova è in corso una riunione per valutare la situazione e decidere di conseguenza. Sul fronte delle ultime precipitazioni e soprattutto di quelle dei primi quattro mesi dell'anno, tra i più piovosi degli ultimi vent'anni, Zanetta osserva malincuore che la gran parte dell'acqua caduta è andata perduta, vista l'ancora modesta capacità di invaso degli attuali bacini montani, un dato su tutti quello del pluviometro di Chievolis tra Meduno e Tramonti, che da solo ha registrato da gennaio ad aprile ben 1,30 m di acqua piovuta. Si sarebbe potuta tesaurizzare per i periodi più siccitosi, osserva ancora Zanette, richiamando la necessità di ragionare sulla pianificazione di nuovi invasi, una sorta di banca dell'acqua, sull'esempio della Sardegna, a cui ricorrere nei periodi in cui piove di meno, oltre che per la maggiore difesa idraulica del territorio. Tagliando l'onda di piena a monte, infatti, rimarca l'esperto, diminuisce notevolmente il rischio di alluvioni a valle. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. 12:37, passiamo al meteo. Il cielo è da nuvoloso a coperto sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11:00: a Trieste 20 gradi, a Gorizia 23,5 gradi, Udine 22, Pordenone 21,5 gradi, in Aramontana Tolmezzo 20,5 gradi, Tarvisio 19,5 gradi, Forni di Sopra 19, Sappada 17, Piancavallo 13 gradi, in quota sul Monte Zoncolan 9,5 gradi e sul Monte Lussari 8,5 gradi, sulla costa Legnano 21,5 gradi, a Grado 20,5 gradi. Le previsioni dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per le prossime ore: cielo variabile, possibile qualche locale rovescio temporale nel pomeriggio sera. Per domani cielo coperto con piogge anche temporalesche, più continue e intense sulle zone occidentali, probabilmente molto intense sulle prealpi carniche. Sulle zone orientali le piogge, seppur abbondanti, saranno meno continue, specie a sud-est, vento di scirocco moderato sulla costa. Pioverà anche sul Giro d'Italia, che si sta avvicinando alla regione. Questa mattina a Udine un incontro in prefettura sulla viabilità in occasione della tappa di venerdì, la Mortegliano-Sappada. Riunione operativa in prefettura Udine in vista della terz'ultima tappa del Giro d'Italia, la Mortegliano-Sappada, quasi 3.000 metri di dislivello, 157 km di lunghezza. Riunione alla presenza delle 24 amministrazioni comunali, forze dell'ordine e tutti gli enti pubblici coinvolti. Tappa che potrebbe essere accorciata di 1 km se entro mercoledì non saranno ultimati i lavori di messa in sicurezza, tutto dipende dal meteo, sulla strada vecchia per Paularo, interrotta per frane venerdì scorso. In quel caso la carovana rosa transiterebbe dalla strada nuova, meno panoramica e più corta, appunto di 1 km. Andrebbe qui potenziata l'illuminazione in una galleria. Ultimi ritocchi in queste ore sulla ciclopedonale di Sappada all'interno della Carni Arena e in comune di Paularo. Domani alle 9:30 ultimo sopralluogo con i tecnici, la stradale e le forze dell'ordine. Strade chiuse da 2 ore e mezza prima della corsa in ogni comune. L'arteria che va da Como e Ianza a Sappada sarà chiusa alle 13, a meno di problemi di parcheggio a Sappada, Forni a Volte e Rigolato. In quel caso verrebbe chiusa prima. Per chi vorrà seguire l'arrivo tappa a Sappada o in questi comuni, il consiglio è di recarvisi già in mattinata. La salita al Passo Duron verrà sbarrata già alle 7:30 del mattino, monitorata dal soccorso alpino e dalle forze dell'ordine, unico punto critico di ricezione del segnale telefonico di tutto il tragitto. Più di 2.500 parcheggi nella parte finale della tappa, si andrà a riempimento. Dalle 8 attivo il servizio di bus navetta fino alle 12:30. Partirà dalle 9:30 l'analogo servizio sul versante bellunese, dove sono previsti un migliaio di parcheggi da Santo Stefano di Cadore. A rientro, bus navetta da fine corsa fino alle 22.30. Per chi andrà in bici o a piedi, assicurata sempre la possibilità di arrivare. Tra protezione civile, forze dell'ordine e volontari, più di 1.000 le persone coinvolte nella macchina organizzativa, indica Paolo Urbani, del comitato organizzatore di Tappa. Dalla Slovenia è atteso grande afflusso di spettatori per incoraggiare l'idolo di casa, in maglia rosa, Pogačar. In caso di bella giornata, attese decine di migliaia di spettatori, tra i 5 e i 10.000 a Mortegliano e a Sappada, più tutti coloro che stazioneranno lungo il percorso. Si spera di raggiungere il miliardo di persone tra televisione, radio e social network. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Si è aperta all'Università di Trieste l'iniziativa intitolata Beyond Borders, senza confini, che coinvolge più di 200 studenti europei che fra Italia e Slovenia impareranno la storia e le prospettive di collaborazione del territorio. Da mercoledì si sposteranno a Capodistria. Conoscere ciò che sta al di là del confine. Si chiama Beyond Borders l'iniziativa formativa dell'Università di Trieste e Capodistria che nell'ambito del progetto Transform for Europe mira a raccontare ad oltre 200 giovani provenienti da 10 paesi europei la storia, il presente e le potenzialità del territorio di confine. È necessario partire dalla collaborazione transfrontaliera per poter creare una comunità accademica europea. Alberto Pallavicini, Transform for Europe dell'Università di Trieste. Per noi è una crescita, è provare a livello locale, a livello regionale, transfrontaliero, quello che si vuole fare a livello europeo, quindi viene tutto molto più agevolato e per me è anche un onore riuscire a mettere in contatto i colleghi che fino adesso neanche si conoscevano pur lavorando a 10 chilometri di distanza. Dopo l'evento inaugurale in Aula Magna dell'Ateneo Triestino, i corsi dei primi due giorni saranno dedicati alla scienza partecipata e alla mobilità verticale. Mercoledì un simbolico passaggio del testimone a San Servolo Sozerb, dopodiché si continuerà a Capodistria, dove si parlerà dello sviluppo delle università europee, l'obiettivo di Transform for Europe. Claudia Kuttner, rettrice dell'Università della Primorska. Il progetto offre tante preziose opportunità per ufficializzare la collaborazione tra i due Atenei, superare la logica dei piccoli progetti di nicchia su cui abbiamo lavorato fino ad ora e creare politiche dell'istruzione comune. Margherita è una studentessa che dopo aver fatto l'Erasmus alle superiori oggi crede che la mobilità studentesca contribuisca a rafforzare l'identità europea. Penso che ci aiuti davvero a capire che cosa significa essere cittadini europei, perché a volte magari l'Europa ci può sembrare una cosa un po' lontana e invece entrare così tanto in contatto con tante persone di altri paesi dell'Unione Europea ci aiuta davvero a sentire che in realtà è vicina a noi e possiamo viverla tutti i giorni. Trieste, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ogni anno in Europa sono 400.000 i casi di arresto cardiaco, 60.000 in Italia. Un evento inaspettato, improvviso, che può colpire chiunque, dai neonati in su. Per salvare la vita in questi casi, la tempestività è tutto. Ne abbiamo parlato con un esperto in cardioprotezione. Sentiamo. Siete a cena con amici o a passeggio per strada, in città. Improvvisamente qualcuno vicino a voi ha un malore, è in arresto cardiaco. Oltre a chiamare subito il 118 o il numero unico d'emergenza 112 valido in tutta Europa, come comportarsi? Lo spiega Walter Reutz, consulente in cardioprotezione. Bisogna valutare la scena, controllare che la scena sia sicura per il soccorritore, chiamare e scuotere la vittima per accertarci che non sia cosciente e valutare se respira. Sembra una cosa complicata, in realtà tutti quelli che vengono a fare poi i corsi scoprono che è abbastanza semplice, insomma. Un ausilio può venire anche dall'utilizzo di defibrillatori portatili, se se ne individua uno, nelle immediate vicinanze. Il soccorritore deve individuare che la vittima non sia cosciente e non respiri, poi attacca le piastre sul torace e ascolta quello che l'apparecchiatura indica. È come avere un cardiologo seduto vicino a noi che ci dirà qual è la diagnosi, qual è la terapia. Esistono responsabilità penali in capo al soccorritore qualora nell'intervenire dovesse inavvertitamente arrecare un danno alla vittima? Spesso mi viene chiesto se si può fare peggio, ma peggio di essere in arresto cardiaco ancora non ho trovato condizioni. Per quanto riguarda le norme di legge, già dal 1930 esiste il codice penale che poi è stato aggiornato nell'88. All'interno c'è l'articolo 104, stato di necessità, che prevede che chiunque soccorra un corpo inerme a terra non è punibile. Ma detto questo, nel 21 è uscita la legge 116 che consente a tutti, anche a chi non ha fatto il corso, di soccorrere perché si trova davanti alla vittima. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. La pagina della cultura e degli spettacoli a Gorizia, la proiezione del film Los Colonos al Kinemax alle 20.30 inaugura questa sera la quarta edizione di Estoria Film Festival, che da giovedì si intreccerà con il programma di Estoria. Ne abbiamo parlato con il direttore artistico Adriano Ossola. Questo è il 20° anno di Estoria, la 20ª edizione, insomma, volevamo in qualche modo riflettere non solo sugli anniversari, ma soprattutto sulla la funzione delle date, in generale sull'essenza della storia. Nella giornata di oggi si inizia con i film storici piacciono, hanno un gran successo di pubblico, pensiamo a Paola Cortellesi con C'è ancora domani o Napoleon di Ridley Scott, tantissimo successo. Perché piace il film storico? I film che proponiamo noi all'interno di Estoria Film Festival sono proprio delle pellicole che illustrano il rapporto odierno a livello globale tra cinema e storia, un rapporto antico ma che continua a essere frequentato, reso vivo da autori di qualsiasi latitudine. Oggi lunedì con che film si inizia? Con un film cileno, Los Colonos, duro, aspro film di denuncia sociale ambientato all'inizio del Novecento nella Terra del Fuoco. 180 appuntamenti in pochi giorni, 300 autori, ci vuole dire quali sono proprio gli appuntamenti più imperdibili? Le date sono tantissime, vorrei citare solamente a titolo di esempio l'appuntamento con Andrea Carandini, che parlerà di un 21 aprile tra il 765 e il 750 avanti Cristo. Questo per anche dare un'idea della vaghezza delle date antiche, e viceversa sul piano della contemporaneità l'incontro con Marco Travaglio, Federico Rampini e Benny Morris, grande storico israeliano, sul 7 ottobre 2023 e l'escalation che ne è nata. Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Passiamo agli spettacoli con la musica. Al Verdi di Trieste, ospite della Società dei Concerti, stasera c'è un grande virtuoso del violino, Augustin Hadelich, che suonando uno strumento di quasi 300 anni fa, un Guarneri del Gesù del 1744, proporrà un programma vario e suggestivo, da Bach al blues. Il concerto di stasera chiude la 92esima stagione della Società dei Concerti, che però ha davanti un'estate in musica, oltre al festival Il Faro della Musica, che sarà presentato domani. Invece oggi alle 19.15 a Ridotto del Verdi il direttore della SDC Marco Seco anticiperà alcuni degli appuntamenti della stagione numero 93. Pagina dello sport calcio, la volata salvezza in Serie A a 90 minuti dalla conclusione del campionato, 180 ne restano al Verona, che questa sera giocherà sul campo della Salernitana, già retrocessa. Volata non facile per l'Udinese, alla quale potrebbe non bastare un pareggio nello scontro diretto sul campo del Frosinone. Un campionato che si sta decidendo nei minuti di recupero. Quello che ha perso l'Udinese nei finali di partita lo sta recuperando ora per credere ancora nella salvezza. È successo con il Napoli e ancora con l'Empoli, tra paure e polemiche, quelle che fanno dire a Nicola che il gol di Malè era regolare e il fallo da rigore commesso a recupero finito. Sull'ingenuità di Fazzini però non si discute, ed ecco che il 19esimo pareggio dei friulani, un intero girone con questo risultato, rimanda tutto all'ultima puntata del tri. Fabio Cannavaro, allenatore dell'Udinese. Soprattutto dopo il rigore dell'Empoli hanno dimostrato di essere uomini, perché io quando parlo con loro parlo con gli uomini, non solo con i calciatori. Hanno fatto capire che ci tengono, hanno fatto capire che non sono disposti a mollare nulla, e come avevo detto qualche giorno fa, nessuno doveva pensare che eravamo già salvi, perché l'Empoli era una squadra tosta. L'Udinese a Frosinone se vince è salva, ma se pareggia è costretta a dipendere dal risultato di Empoli-Roma. I toscani in questo caso sarebbero salvi soltanto vincendo. Se i friulani invece vengono battuti, ci sarebbe uno spareggio con andata e ritorno nel caso in cui la squadra di Nicola pareggiasse con la Roma. Udinese retrocessa con un eventuale KO e naturalmente con la vittoria dell'Empoli. Frosinone, che per salvarsi senza dipendere da altri ha a disposizione 2 risultati su 3, mentre il Verona potrebbe centrare l'obiettivo nel posticipo di oggi con la Salernitana. Settimana da vivere con il fiato sospeso anche per le condizioni di Success, che potrebbe non farcela per la trasferta di Frosinone. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora il basket, alle spalle gara 1 delle semifinali playoff che ha visto Trieste dominare sul campo di Forlì 72-49 il risultato. Il coach biancorosso Cristiano è molto soddisfatto, ma avverte l'avversario è duro domani gara 2. Questa è una squadra molto forte, quella di Forlì, la rispettiamo molto, i nostri giocatori sono stati molto capaci, giocata dopo giocata, soprattutto a livello difensivo, abbiamo fatto secondo noi una delle migliori partite dell'anno, quindi buona gara 1 per noi, però sappiamo che faranno giustamente, sappiamo che dobbiamo essere pronti a tutto quello che faranno. Noi siamo stati una squadra che si è unita attraverso le difficoltà per necessità quest'anno, perché ci sono capitate una serie di difficoltà e questo ci ha unito. Abbiamo uomini duri, uomini veri, che credono l'uno nell'altro e credono in quello che stiamo facendo, per come funziona questo mondo insomma. Ma dobbiamo anche essere pronti a raggiungere il livello di durezza che sarà necessario tra 2 giorni. E ora la sponda APU, Udine è uscita sconfitta 64-61 nel primo atto sul campo di Cantù, ma ha dimostrato che può lottare ad armi pari con i brianzoli. Ascoltiamo la voce di Mirza Libegovic, ieri miglior marcatore per i bianconeri. È stata una partita tostissima, ce le siamo diciamo date per 40 minuti, però noi ci crediamo, anche in spogliatoio a fine partita dobbiamo solo pensare che abbiamo fatto qualche palla persa di troppo e qualche rimbalzo in attacco concesso troppo nel primo tempo a loro. Quindi dobbiamo solo essere sereni, carichi e siamo sicuri che possiamo fare solo meglio in gara 2. È una serie a sprazzi, nei 40 minuti diciamo che giochiamo a folate tutti, anche noi siamo partiti 10-2, poi loro hanno recuperato, sono stati sopra di 10, abbiamo recuperato noi, siamo stati sopra di 7, quindi dobbiamo solo essere tranquilli, più concentrati e cercare di limare quegli errori banali che alla fine ci hanno costato la partita, però siamo più vivi che mai. Si informa che al fine di permettere su tutto il territorio nazionale le comunicazioni politiche in vista delle prossime elezioni europee, la programmazione radiofonica in lingua friulana subirà delle variazioni d'orario d'inizio che oggi saranno spostate alle 16. È tutto per questa edizione che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giampaolo Mauro. Per il coordinamento tecnico grazie a Mauro Ciccarelli e a Federico Comar e grazie a Laura Sarasini che ha collaborato in redazione. Le 12 quasi 52 minuti, prossima edizione alle ore 15. Grazie per la vostra attenzione, buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.